come vogliono loro. Nel caso trovano una pianta secca, devono chiedere il permesso di tagliarla, perché in quel caso sarebbe secca. E quindi, diciamo, il piano d'assestamento è da ormai 40 anni viene utilizzato anche per fornire questo uso civico alla popolazione, ma facendolo in maniera più razionale, perché ovviamente adesso c'è molto più facilità di movimento. Quando era lasciato libero, ovviamente i boschi intorno al paese erano molto più sfruttati dei boschi più lontani, perché chiaramente la comunità di raccolta e così. E quindi, diciamo, quello che è l'uso civico viene utilizzato per andare ad applicare il piano d'assestamento, e la legna viene consegnata alle famiglie dietro pagamento del costo vivo, che vuol dire non del costo della legna ma del costo del servizio, che tecnicamente per quel tipo di qualità di legna che ricevono è molto meno di quello che spenderebbero per andarsela a cercare da solo, perché sono circa 40 quintali a famiglia, circa, per 600 famiglie fa 24.000 quintali, che sono circa, per il faggio, 3.000 metri cubi di legno, che ovviamente consentono di poter, diciamo, fare degli interventi su diverse, anche decine di ettari. E quindi, razionalizzando tutto questo, si continua a fornire un servizio, ma si gestisce un bosco che storicamente è gestito in maniera più razionale e, vogliamo dire, anche più sostenibile. Domanda, prego. Ma il fatto che gestisce questo tipo di azione, c'è qualcosa tipo una comunanza agraria? No, qui non c'è una università agraria, che a volte ci sono, non c'è. I boschi, diciamo, che fanno questo servizio sono boschi comunali. Quindi è il comune che fa il bando, perché ovviamente cosa succede? Decide che l'uso civico per il piano d'assestamento in quest'anno deve essere fatto in un certo bosco, fa un bando, rispondono le ditte che sono in grado di fare e quindi si aggiudicano il bando, poi portano la legna e la consegnano alle famiglie. Quindi il parco cosa fa? Il parco, sul piano d'assestamento, quando in origine viene presentato e poi diciamo mandata alla regione per l'approvazione, il parco dà il suo parere dicendo: su alcuni boschi potete fare certe cose, su altri no. E c'è la famosa valutazione di incidenza, per chi l'abbia mai sentita. Vuol dire che chi presenta il piano, o chi anche fa il piano di taglio, dice, fa una valutazione di quanto questo taglio possa incidere sulla biodiversità. E per esempio c'è la stagione di taglio che magari viene spostata perché c'è la nidificazione di qualche, oppure il momento di andata in letargo degli orsi, eccetera. Ovviamente qui, un po' in generale, perché questo è SIC del Parco d'Abruzzo, anche se siamo subito fuori, comunque il parco dà il suo parere, ma una volta approvato il piano d'assestamento poi si dà un parere a quello che magari è il taglio avvenuto. Nel piano d'assestamento ci sono anche diverse finalità. Per esempio, questo bosco dove siamo, quello che abbiamo, diciamo, lasciato sulla destra e adesso ci siamo entrati, ha questo pezzetto, questa particella, ha una finalità di uso turistico, perché è intorno al prato, perché viene frequentato, eccetera. Quindi tutto quello che si fa qui dal punto di vista di intervento di gestione forestale è solo per la sicurezza, cioè non si taglia per fare legna da ardere o assi per i mobili, eccetera, ma tutto quello che qui viene tolto è solo per garantire la sicurezza di un posto che è molto frequentato, perché è vicino al rifugio, vicino al pratone, eccetera. Quindi se prendete il piano assestamento di Collecongo, questa particella ha una destinazione a uso turistico. Questo perché tutto il bosco ovviamente può essere frequentato dai turisti, però qui in maniera più vicina. E del resto parliamo dopo, lasciamo, esatto, meglio. Visto, no, vediamo come sta Guglielmo, come va? Ha anche lui. Camminare a piedi nudi non è un problema per nessuno. No, qua. Prego, meglio. No, volevo aspettare. Possiamo aiutare Guglielmo. Grazie. è inaiutabile. Dove vai? Puoi dargli un punto. La scarpa delle due. No, scarpa. Che numero hai? Lo zoppo che insegna. Che numero hai? 42. Devo un coltellino per tagliare. Ho un secondo paio 37. 42. Ho chiesto un'altra. 38.